Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Due o tre volte quella notte ci fu anche il vero silenzio. Il solenne silenzio degli antichi boschi, non comparabile con nessun altro al mondo e che pochissimi uomini hanno udito. Dino Buzzati. Bentrovati al Giardino Segreto. Oggi andiamo in foresta a goderci il silenzio, l'ombra e il fresco che tanto abbiamo rimpianto quest'estate, senza però scegliere la montagna, bensì il mare. Andiamo in Puglia, nel Gargano, nel cui cuore si estende una faggeta raggiungibile in pochi minuti dalle spiagge assolate di Vieste, Peschici, Mattinata o da luoghi storici come Vico del Gargano o Monte Sant'Angelo. Sto parlando della foresta umbra, vale a dire ombrosa, dove i pugliesi si rifugiano d'estate per godere di almeno 6-7 gradi in meno, oltre che di pace e volendo di completa solitudine tra gli alberi. Adesso, tra i faggi, che sono patrimonio dell'UNESCO, si può tornare a dormire perché l'antico rifugio è stato da poco restaurato. Intorno solo alberi e tratti di foresta che tra qualche anno potrebbe tornare ad essere considerata nativa. Io l'ho visitata con un botanico, Nello Biscotti, autore di diversi libri, tra cui il già raccomandato qui al Giardino Segreto Vie Erbose. Con la sua guida ho imparato a conoscere faggi, carpini, aceri, le piante del sottobosco e a concepire cos'è in una foresta la cascata luminosa. Ho pensato di non tenere tutto questo sapere per me, allora entriamo con Nello Biscotti nell'unicità della foresta umbra. Beh, l'unicità la si può vedere intanto in questo territorio che racchiude una diversità di unità boschive sorprendente, perché si passa dalle pinete costiere alla faggeta, con la fascia intermedia di tutta una serie di querceti, caducifogli e sempre verdi. Quindi passiamo dalla foresta mediterranea più costiera, che è segnata dal pino d'Aleppo, poi la lecceta, poi c'è una fascia di cerro e di quercia virginiana e poi finalmente la faggeta, che è quella posta in quota. Quindi a 800 metri trovi una faggeta. Però quello che lo rende interessante è che questa faggeta scende di quota fino a toccare i 200-300 metri, e questo lo rende curiosa e interessante, perché non dovrebbe essere questa faggeta in quote così basse. E queste quote sono spesso solchi vallivi, forre, dove si creano condizioni microclimatiche fresche che permette al faggio poi di starci, perché il faggio è una specie che ha bisogno di climi fresco temperati, diciamo. Foresta umbra, siamo, ricordiamolo, in Puglia, nel Gargano. Foresta umbra perché è ombrosa e fresca. Cupa foresta nordica, dicevano certi viaggiatori che venivano qui, non si sarebbero mai aspettati di trovare una foresta come poi si rivelava, con i tratti proprio di una vera foresta, di qualcosa che richiama un po' situazioni primigenie, no? Di boschi originari che ci rimandano forse all'epoca in cui per la prima volta qualcuno ne parla, che sono poeti latini, Ovidio, Orazio, che parlano di questo vento forte che si sprigiona, di cui è capace il bosco di esprimere, oltre alla condizione di ombrosità. Quindi già i romani sanno che qui c'è un Nemus Garganicus, no? Un bosco che poi comincerà a essere attaccato solo a seguito di disboscamenti, solo a fine Settecento. E comincia a essere attaccato, tant'è che diventa una questione nazionale, perché era evidentemente un polmone importante di verde, no? Tant'è che la Società Botanica, tra i primi atti, è quello di fare un appello al governo di fermare, e per fortuna gran parte di queste proprietà boschive poi sono acquisite dallo Stato, e questo poi ne permetterà la conservazione. Adesso di chi è la foresta umbra? La foresta umbra adesso ci sono 1000 ettari che sono proprietà dello Stato. Stato, che sono riserve, cioè sono queste prime forme di tutela che si attuano negli anni 70, poi con il decentramento sono passati alle regioni, ormai gestiscono il tutto le regioni. Ed è patrimonio dell'UNESCO? Il patrimonio dell'UNESCO è una componente di questa foresta, che sono le faggete. Faggete che sono state identificate come vetuste, proprio perché si presentano con i caratteri di boschi vecchi, che sono diventati una rarità in Europa, tant'è che l'Unione Europea ha individuato quelli che possono essere ritenuti i boschi vetusti più importanti d'Europa, e adesso entra anche il bosco d'Umbra come faggeta, non come bosco. Però noi abbiamo evidenziato che qui si può parlare di veri e propri boschi vetusti, con strutturazioni complesse, molto composite, che le rendono particolari. Cioè non nativi, perché poi non esistono più in Italia e in Europa, però ci sono tratti della foresta umbra che, diciamo, rispecchiano la natura come sarebbe lasciata a se stessa. Qui si ha la possibilità di avere un'idea di questo bosco naturale, perché si può parlare di resti probabilmente di queste foreste che poi c'erano ai tempi dei Romani e dei Latini, insomma. Quindi si vedono tante unità, tanti angoli che conservano il massimo grado di naturalità. E molti alberi sono molto alti. Si dice che in foresta umbra gli alberi salgano più che in altri punti d'Italia. Beh, qui si è parlato di gigantismo, no? Cioè di questa imponenza di sviluppo di molte specie, sia arboree che arbustive. Però lo spettacolo fa il faggio, con queste colonne, come dicevano i Celti, no? I Celti, il faggio diventerà un albero sacro, proprio perché erano convinti che sostenesse il cielo. Quindi rispetto assoluto di questa specie, se distruggevano il faggio, il cielo gli sarebbe caduto addosso. Noi siamo nella foresta umbra, possiamo anche fare sentire qualche rumore camminando, sì, infatti, voglio dire. Stiamo camminando. Un po' la sensazione che gli alberi sostengano il cielo c'è passeggiando. Nella foresta umbra, vero? Non ci sono soltanto i faggi, ci sono gli aceri, ci sono i carpini. È un bosco composito, dove la faggeta poi si presenta in tutta la sua strutturazione, no? E rende unica la faggeta del Gargano rispetto a quella degli Appennini, perché con la fitosociologia si può studiare il bosco e capire analogie o differenze rispetto alle altre. Cioè le faggete stanno un po' ovunque. Adesso si tratta di capire con la botanica, e qui è impegnata, perché capire la diversità. La diversità la fa la composizione delle specie, che vanno da quelle arboree a quelle arbustive, anche a quelle erbacee. Ecco, la faggeta garganica ha le sue unicità all'interno delle faggete dell'Italia meridionale. Certo che chi viene in Puglia o in Gargano per il mare, le spiagge, insomma il sole, la vacanza, non è facile aspettarsi poi un polmone verde di questo tipo, no? Una foresta che ombreggia in questo modo è così grande. Quant'è in tutto? 15.000 ettari? Noi parliamo almeno di 10.000 ettari che sono proprietà pubbliche, poi ci sono tante proprietà private che costituiscono poi nell'insieme la superficie boscata. Non molti anni fa, molti decenni fa, era una foresta produttiva questa, da cui si ricavava legno, non soltanto. Questa è stata la risorsa economica per la provincia di Foggia, per la Puglia. Qui legname da ardere, legname da costruzione, da tavolame, da segherie. Noi avevamo una segheria che faceva anche utilizzi di faggio per mobilio, per utensili di ogni sorta. Questo quando il bosco era ancora risorsa economica. Poi il metano è arrivato ovunque, e per fortuna, perché se continuavamo così non avremmo più tracce di bosco. E invece per fortuna la foresta nel Gargano è rimasta. È rimasta e rimane un bel grande polmone che mantiene fisso, mantiene carbonio organico, per cui ecco perché sono importanti i boschi vecchi, perché manteniamo conservato il carbonio in forma organica, perché se li distruggiamo sto carbonio poi diventerà CO2. Quindi a mezz'ora di media dalle spiagge, sì, di tutto il Gargano, tra l'altro con una strada veramente bellissima, bellissima, si arriva in una vera e propria foresta che è rimasta più o meno com'era. Com'era, sì, perché questo lo possiamo dire, perché l'azione di disboscamento in realtà è un fatto che si concentra nel 700, poi la gestione statale ha fatto molto, nel senso che poi questo ha permesso un utilizzo programmato, razionalizzato. Io sono convinto che la proprietà pubblica poi dello Stato fa molto in questo. Ecco, cosa ci sarebbe da fare ancora? Anzi, quale sarebbe la priorità? Io dico che bisognerebbe sfruttare ancora di più il turismo scientifico naturalistico, perché non è conosciuta se non alla comunità degli addetti del settore. Il richiamo è ancora il suo valore ricreativo, per cui la foresta umbra richiama ancora in tutta l'Italia meridionale, è conosciutissima, anche se spesso è scambiata come... La foresta umbra non è in Umbria, è in Puglia, è nel Gargano. E Nello Biscotti fa delle visite guidate grazie alle quali una persona poi è in grado di riconoscere qual è il carpino, qual è il... Lo facciamo perché vogliamo divulgare la botanica, questo è il nostro interesse. Noi ci impegniamo a fare divulgazione scientifico-naturalistica, soprattutto capire come, che cos'è un bosco, come si struttura, come la natura funziona, perché attraverso i boschi capiamo come funziona la natura. E non è facile ancora, soprattutto il Gargano, perché ha una complessità incredibile. Io faccio parte di un gruppo di ricerca capeggiato da un grande luminare ormai emerito, professor Edoardo Biondi. Stiamo spendendo oltre 25 anni della nostra vita a girare il bosco del Gargano e ancora non arriviamo a una sintesi, perché la complessità è incredibile. Però passeggiando, a parte che si vedono animali, anche delle mucche che girano libere, cinghiali, sì, sì, caprioli, Capriolo, martore e altri animali, però i protagonisti sono questi fantastici alberi e tutto poi il sistema anche del sottobosco, che passeggiando in foresta umbra puoi capire. E si comincia a capire come è strutturato un bosco, perché poi vedi che chi decide la strutturazione è la luce, e allora quindi puoi riconoscere dei piani in cui a ogni piano corrisponde una fascia di vegetazione intesa come comunità di piante. Quindi quando parliamo di faggeta nel Gargano possiamo riconoscere almeno due strati, un primo strato segnato dall'agrifoglio e poi un secondo strato dal faggio, che però poi non è sempre lui, perché chi decide i cambiamenti è l'acqua nel terreno. Allora dove c'è un fondo, dove l'acqua si concentra maggiormente, poi c'è il carpino, dove c'è un salto di quota c'è l'acero, e quindi riusciamo a capire come funziona, perché c'è quella strutturazione del bosco, che lo decide la luce, che chiamiamo noi cascata luminosa, e l'acqua nel terreno. L'acqua è appunto la cascata luminosa che illumina, che deciderà chi svetterà più alto, riuscirà a beccarsi il suo spazio di luce, quello vince. E qui si può vedere come poi tra gli individui vedi, no, questa lotta, questa fatica degli individui di vivere insieme, ma ognuno di conquistarsi il suo spazio vitale. E le felci se ne conquistano parecchio di spazio vitale. Le felci se lo conquistano dove sta avvenendo quella che noi chiamiamo rinaturazione. Cioè qui, come sta succedendo un po' in tutta Italia, si stanno abbandonando molti territori che erano oltre territori agricoli. Con l'abbandono la natura si sta riprendendo questi spazi e lo sta facendo con delle tappe, e la felce è la prima tappa, è il primo segno che la natura sta conquistando quello spazio. Comunque una frescura eccezionale anche nelle estati più torride, in foresta umbra. Ma e invece in inverno? In inverno qui come se stiamo un po' a Bormio, stiamo nel Trentino, perché ci sono dei punti dove le temperature sono bassissime, tra qua stavamo dicendo le temperature tra San Menaio e qui ci saranno almeno 10 gradi di temperatura differente. Ma ha un senso venire a visitare la foresta umbra in autunno oppure in Ma inverno? Le stagioni sono interessanti tutte, perché si può capire poi quello che chiamano il foliage ormai, no? Cioè di capire i diversi colori del bosco in tutte le stagioni. Poi è bellissima la primavera, quando questo bosco è spoglio e si possono apprezzare la fioritura di tutte le specie che fanno il sottobosco, che noi chiamiamo geofite, sono tra le orchidee per esempio, sono tutte geofite, che questi si rendono visibili in un intervallo di tempo molto breve, ed è quello che va tra la fine dell'inverno finché il bosco non rifà le foglie, quindi non più di 15-20 giorni. Orchidee? Orchidee è tutta una serie di geofite, tipo il bucaneve. Le geofite sono preziosissime perché lasciano poi nessuna traccia della loro presenza e quindi si possono ammirare solo in questo brevissimo intervallo di tempo prima che non si riformi la volta proprio ombrosa e quindi poi toglie ogni possibilità possibilità di vivere a tutte le specie che invece sono sciafile e avrebbero bisogno di luce. La foresta umbra fa parte del Parco Nazionale del Gargano, sì. È una parte. Sì, sì, diciamo che il cuore, il valore naturalistico di questo parco è proprio questa foresta, o non solo la foresta in sé quanto la sua vegetazione. Qui non abbiamo animali come può succedere in altri parchi che diventano poi gli attrattori. Qui dovremmo fare un grosso lavoro di educazione per far capire che il valore di questo parco è proprio il suo paesaggio vegetale. La via più chiara verso l'universo è attraverso una foresta selvaggia. John Muir. Per conoscere meglio Nello Biscotti, cercate su Facebook Vie Erbose o riascoltate la puntata del Giardino Segreto del 6 settembre scorso. Noi intanto rimaniamo nella foresta umbra per scoprire com'era 70 anni fa nelle parole di chi ci ha abitato da bambina. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Il giardino segreto. Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi li sa ascoltare, conosce la verità. Predicano la legge primigenia della vita. Herman Hesse. Di sicuro ha imparato molto dagli alberi e ne serve Dio, perché ci ha vissuto in mezzo fino ai 16 anni. Figlia dell'allora amministratore della foresta umbra, che negli anni 50 produceva in media 200.000 metri cubi di legname all'anno, quel bosco fitto e grandissimo a poca distanza dal mare non l'ha mai dimenticato, fino a scriverne un libro ricco di fotografie dal titolo Quando correvamo alla luna. Ho incontrato Ena Serve Dio nel cuore della foresta umbra. Io sono arrivata qui in Foresta Umbra che avevo 18 mesi, sono andata via che ne avevo 16 anni, per cui tutta la mia infanzia è qui, è casa per me. Allora, quando noi tre bambini, figli dell'amministratore, finivamo di giocare in questo bosco che era il terreno di gioco, noi giocavamo a nascondino la sera e non c'erano problemi. Gli alberi come nascondiglio. Gli alberi come nascondiglio, ma anche come abbraccio, perché per me l'albero è qualcosa che fa parte del mio essere. Cioè, lei deve pensare che io ho un passato anche da scout. Allora, sono rimasta il primo giorno a guardia del campo, gli altri mi hanno lasciato sola. Bene, io sono stata a casa. Sono tornati, come non hai avuto paura? Dice, ehi, nel bosco non ci sono problemi, sono gli uomini che portano il problema. Non è l'animale, perché l'animale, se tu lo rispetti, se rispetti l'albero, è tutto tranquillo. Avete fatto una giovinezza sicura. Allora, non c'erano macchine, non c'erano problemi. Stiamo parlando di una libertà immensa che un ragazzo degli anni 2000 non può neanche immaginare. Cioè, noi eravamo liberi e insieme dalla mattina alla sera, perché la mattina avevamo la scuola, il pomeriggio giusto il tempo di fare i compiti, e tornavamo insieme fino a che diventava buio e le mamme ci chiamavano. E allora noi corravamo in tondo sotto i raggi della luna, quindi quando correvamo alla luna. Ecco il titolo del libro che ricostruisce l'infanzia, esatto, in foresta umbra. Esatto. E voi figli dell'amministratore. Dell'amministratore, perché in quegli anni la foresta umbra era un'azienda produttiva, forse la più importante di tutto un territorio che risentiva ancora dei problemi della guerra. Perché... Quindi parliamo degli anni 50. Allora, parliamo dal 1949 al 1964. Quello è stato l'arco di tempo che mio padre è stato l'amministratore di questa azienda. Ci è arrivato trentenne, è andato via cinquantenne. Siamo arrivati che ero io sola e la famiglia è diventata di 5 persone. Tutti nati in foresta umbra. Assolutamente sì. Allora, noi parliamo degli anni 49-64. In foresta non c'era un negozio, non c'era una macchina, non c'era nulla. Per cui c'era questo ciuchino con Cecco che giornalmente veniva da Vico e faceva il giornalaio, il farmacista, il supermarket, di tutto e di più. più in queste gerle dove c'era di tutto, e quando arrivava il ciuchino lo legava accanto a casa e noi sapevamo che era arrivata la civiltà. E la civiltà era un ciuchino? La civiltà era un ciuchino che arrivava con la neve e con il bel tempo, cioè veramente sempre. Un bosco di 15.000 ettari? Sì, sì, era grandissimo. Questo luogo è un luogo di delizie. Tenga presente che non c'era niente in foresta, però qui, in questo luogo, avveniva la festa più importante del territorio, perché era la sagra della foresta e la festa della montagna. E qui? Qui. Che spieghiamo, siamo all'Hotel Elda, quindi un hotel che è nel cuore della foresta umbra, che è stato restaurato da pochissimo, quindi da pochissimo si può pernottare e pranzare. Questo però negli anni 40 della sua infanzia era? Allora, questo era il rifugio per le cene eleganti, perché questo era l'unico luogo elegante, e io mi ricordo mia madre vestita in gingheri, magari col cappellino, che veniva qui per una cena. Il luogo di aggregazione e di mondanità. Era il luogo di mondanità, perché era un hotel medio-alto. Le signore bene di Bari venivano qui, perché il costo di una camera era decisamente alto, perché costava 1.300 lire. Cioè, era notevole. E qui si svolgeva il momento mondano, perché c'era questa festa che richiamava tutto il territorio. C'era la mattina, c'era la messa al campo, qui, proprio qui dove siamo. Qui c'era l'altare da campo e poi lì c'erano gli ospiti, ed erano ministri, onorevoli, sottosegretari, cioè veramente il jet set del Corpo Forestale dello Stato. Quindi una vita importante, affascinante. Per noi ragazzini è stata la libertà, una libertà indicibile. Cos'è significato poi a 16 anni, quando vi siete allontanati, anche perché per studiare alle scuole superiori, ovviamente qui elementari e medie, ma poi non si poteva continuare in foresta umbra. Cosa significa per una persona nata, diciamo, cresciuta in mezzo agli alberi, poi cambiare? È stato un vero e proprio trauma, perché chiaramente noi abbiamo perso la libertà, abbiamo perso gli amici. Noi eravamo diversi, ci sentivamo diversi, avevamo problemi con il traffico, perché Foggia era, anche se negli anni 60 era meno di adesso, però era una città piena di macchine, per cui noi inizialmente abbiamo avuto diversi problemi, per cui mamma ha fatto un'operazione di taglionetto, via. È stato un periodo della nostra vita bello, ma senza rimpianti non ci dobbiamo tornare più. Cioè, quella vita che ti aveva fatto sentire parte del bosco non era più lei. Poi è arrivato la visione di una piccola clip dell'Istituto Luce, che ha detto: vedi che tu sei questa, tu sei questa, è inutile che fai finta di essere la cittadina, tu sei la foresta. Torna a casa, ritorna a quegli anni, racconta. E ho incominciato a scrivere il libro, e la foresta mi ha accolto. Io sono tornata a novembre, c'erano già i camini accesi, il fumo dai comignoli, che ha detto: vedi, tu non hai più le treccine, ma anche il bosco è cambiato. Siete cresciuti entrambi e io mi sento a casa. Adesso qual è l'importanza della foresta umbra per il Gargano, per la Puglia? Allora, per me questo albergo che è tornato a vivere, per me è la molla che possa far rinascere il ritorno alla vita della foresta. Secondo me dovrebbe iniziare una sinergia tra questo albergo, che raggiunge nel giro di mezz'ora qualunque luogo del Gargano. Allora, questo è il punto focale, il centro, e deve tornare ad essere quello che era negli anni 50, aperto di giorno, di notte, in inverno, in estate. Com'è la foresta umbra d'inverno? Bella, bella. Una quercia mi insegnò a salir sui rami. Fu un carrubo molto grande come le emozioni. Benedetta giovinezza vista da lassù. Qui si vive senza fretta, non come laggiù. Vi saluto.